Prologo. Lago George, colonia di New York, 8 settembre 1755. I raggi del sole incalzavano il drappello, luce di sangue filtrava nel bosco. L'uomo sulla barella strinse i denti, il fianco bruciava. Guardò in basso, gocce scarlatte stillavano dalla ferita. Hendrik era morto e con lui molti guerrieri. Rivide il vecchio capo bloccato sotto la mole del cavallo, i Caughnawaga che si avventavano su di lui. Gli indiani non combattevano mai a cavallo, ma Hendrik non poteva più correre né saltare. Avevano dovuto issarlo sull'arcione. Quanti anni aveva? Gesù santo, aveva incontrato la regina Anna. Era a Noè, Matusalemme. Era morto combattendo il nemico, una fine nobile, persino invidiabile, se solo si fosse trovato il cadavere per dargli sepoltura cristiana. William Johnson lasciava andare i pensieri, un volare di rondini mentre i portatori marciavano lungo il sentiero. Non voleva chiudere gli occhi, il dolore lo aiutava a stare sveglio. Pensò a John, il primogenito, ancora troppo giovane per la guerra. Suo figlio avrebbe ereditato la pace. Voci e schiamazzi segnalarono l'accampamento. Le donne strillavano e inveivano, domandavano di figli e mariti. Lo deposero dentro la tenda. «Come vi sentite?» Riconobbe il viso arcigno e gli occhi grigi del capitano Butler. Tentò di sorridere, ottenne solo una smorfia. «Ho l'inferno nel fianco destro. Segno che siete vivo. Il dottore sarà qui a momenti. I guerrieri di Hendrik? Li ho incontrati mentre tornavo qui. Scalpavano cadaveri e feriti, senza distinzione.» William reclinò il capo sul giaciglio e prese fiato. Aveva dato la sua parola di escau. Nessuno avrebbe infierito sui prigionieri francesi. Hendrik aveva strappato la promessa ai guerrieri, ma Hendrik era morto. Un uomo basso entrò nella tenda, paonazzo, chiazze di sudore sulla giacca. William Johnson sollevò la testa. «Dottore, ho qui una rogna per voi.» Il medico gli sfilò la giubba, aiutato dal capitano Butler. Tagliò le brache con le forbici e prese a lavare e tamponare la ferita. «Siete fortunato. La pallottola ha toccato l'osso ed è rimbalzata via.» «Sentito, Butler? Respingo i proiettili.» Il capitano borbottò un ringraziamento a Dio e offrì uno straccio a William perché potesse morderlo mentre il medico cauterizzava la ferita. «Non alzatevi. Avete perso molto sangue.» «Dottore?» William aveva il volto teso e slavato. La voce era un rantolo. «I nostri uomini stanno conducendo al campo i prigionieri francesi. Tra loro c'è un ufficiale, il generale di Escau. È ferito, forse è privo di sensi. Vorrei che gli prestaste le vostre cure. Capitano, accompagnate il dottore.» Butler e il medico fecero per dire qualcosa, ma William gli anticipò. «Posso restare da solo, non morirò, ve lo assicuro.» Butler annuì, senza dire nulla. I due si congedarono. Per impedirsi di svenire, William tese le orecchie e concentrò il pensiero sui rumori. Vento a scrollare i rami, richiami di corvi, grida lontane, grida più vicine, grida di donne. Un trambusto improvviso attraversò il campo. William pensò fosse Butler di ritorno con i prigionieri. Guardò fuori dalla tenda. Un gruppo di guerrieri Mohawk. Urlavano e piangevano, i tomahawk alti sopra le teste. Trascinavano i Caughnawaga con una corda al collo, le mani legate dietro la schiena. Le donne del campo li vessavano con calci, pugni e lanci di pietre. Il drappello si fermò a non più di 30 yard. Nessuno dei guerrieri guardò verso la tenda. Erano dimentichi di tutto. Ogni senso teso alla vendetta. Il più agitato si muoveva avanti e indietro. «Non siete uomini, siete cani, amici dei francesi. Hendrik vi aveva detto di non alzare le armi contro i vostri fratelli. Vi aveva avvertiti.» Afferrò un prigioniero per i capelli, lo trascinò in ginocchio e recise lo scalpo. Quello cadde nella polvere, prese a urlare e contorcersi. Le donne lo finirono a bastonate. William sentì il sudore gelare la pelle. Un secondo prigioniero venne scotennato, le donne lo presero a calci prima di pugnalarlo a morte. William pregò che tra i morituri non vi fossero bianchi. Finché rimaneva una questione tra indiani, poteva risparmiarsi di intervenire. Hendrick era morto. Figli e fratelli erano morti. I Mohawk avevano diritto alla vendetta, purché non toccassero i francesi. Servivano per gli scambi di ostaggi. Il terzo Caughnawaga crollò a terra con il cranio sfondato. Al quartier generale di Albany, i caporioni mandati dall'Inghilterra non volevano capire. Non si poteva combattere come in Europa. I francesi scatenavano le tribù contro i coloni inglesi. Incursioni, incendi e saccheggi. Petit guerre la chiamavano. I francesi avevano un nome per ogni cosa. Dall'alto comando britannico serviva lo stomaco di reagire con la stessa moneta. Era in gioco il dominio su un intero continente. L'arrivo di nuovi prigionieri interruppe le riflessioni. Civili bianchi, furieri, maniscalchi e soldati con la divisa lacera. Uno dei guerrieri trascinò fuori dal gruppo un ragazzo. Indossava l'uniforme da tamburino del reggimento. William era spossato. Coglieva a fatica le parole, ma la sorte del ragazzino era chiara. Un altro guerriero affrontò il primo, che già mostrava il coltello. Con le penne sul capo e il corpo dipinto, ricordavano due galli in un'arena. «Porta la divisa dei francesi! Non puoi prendere il suo scalpo!» «L'ho sentito parlare, Caughnawaga!» Hendrick ha detto che i prigionieri bianchi spettano ai padri inglesi. Guardalo in faccia, ti sembra un bianco? Se Hendrick fosse qui, ti scaccerebbe. Io voglio vendicarlo. Tu lo disonori. Vuoi aspettare che cresca e diventi un guerriero? Meglio ucciderlo subito, ora che i traditori Caughnawaga sono in fuga e ci temono. Stupido! Guaraghiglia Gay si infurierà con te. William Johnson sentì scandire il proprio nome indiano. Warraghiglia Gay conduce grandi affari. Fece leva sui gomiti. Doveva intervenire. Vide il coltello calare sulla chioma del tamburino. Riempì i polmoni per gridare. Qualcosa colpì il guerriero al volto. La pietra rimbalzò per terra. L'uomo lasciò la presa. Portò la mano alla bocca. Tossì. Sputò sangue. Una sagoma piccola e veloce gli fu addosso e lo spinse via. Un guizzo di pelle di cervo e capelli corvini. Ruggiva. Contro i guerrieri che arretravano interdetti. «Siete senza onore!» gridò la giovane donna. «Dite di voler vendicare Hendrick, ma è il denaro degli inglesi che volete. 10 scellini per ogni scalpo indiano!» Si avvicinò al guerriero, che ancora stringeva il pugnale e gli sputò addosso. L'uomo avrebbe voluto colpirla, ma lei lo incalzò. «È poco più di un bambino, non ha sparato un colpo. Potrebbe avere l'età di mio fratello!» indicò un ragazzo dall'aria attenta, al margine del cerchio di donne che si era radunato attorno alla scena. «Quando avrete incassato la paga, la spenderete per comprarvi il rum. Quelli che oggi si danno arie da guerrieri, domani rotoleranno nel fango come porci!» Il guerriero le indirizzò un gesto di sdegno prima di ritirarsi. La donna si rivolse agli altri. «Non pensate che agli scalpi! Ma gli scalpi non vanno a caccia, non portano a casa il cibo, non coltivano gli orti!» «Siete tanto ubriachi di sangue da calpestare le nostre usanze? Oggi molte donne hanno perso figli e mariti. Vanno risarcite, con nuove braccia!» Guardò il giovane tamburino dall'alto in basso. «Dobbiamo adottare i prigionieri come nuovi figli e fratelli, secondo la tradizione. La madre di mia madre fu adottata, veniva dai Grandi Laghi. Lo stesso Hendrick divenne un Mohawk in questo modo. Voi lo avreste ucciso!» Le donne si spostarono alle spalle della giovane. Insieme fronteggiarono i guerrieri. Gli uomini scambiarono occhiate incerte, poi si allontanarono, con finta indifferenza e molti borbottii. William Johnson si abbandonò sulla branda. Conosceva quella furia. L'aveva vista bambina. Molly, figlia del Sachem Brant Kanagaradunka. Da sola teneva testa ai guerrieri. Decideva la sorte di un prigioniero. Parlava come avrebbe fatto Hendrick.